potete scegliere tra tre vie. Il percorso A ha una corrente favorevole a 9 metri al secondo, ma una contraria a 6 metri al secondo. Il percorso B ha due correnti favorevoli a 3 metri al secondo e 4 metri al secondo, ma una contraria a 2 metri al secondo. Il percorso C ha una corrente favorevole a 7 metri al secondo, ma una contraria a 1 metro al secondo. Quale percorso vi offre la spinta più favorevole?